Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, le quote senz'altro in primo piano in questa giornata che segue un passo in avanti, almeno così è stato definito dai più, quello di ieri, appunto, quando il Consiglio congiunto esteri e difesa dell'Unione Europea ha di fatto rispettato le promesse e i pronostici, approvando con qualche limatura di linguaggio il concetto di gestione di crisi e ha deciso di istituire l'operazione militare antitrafficanti UNAVFOR Med nel quadro della politica comune di sicurezza e difesa. Questo consentirà di fatto di cominciare formalmente la pianificazione operativa per la missione navale, che avrà il suo quartier generale a Roma. E questo, diciamo, è il punto acquisito. L'aspetto invece che ora rimane, e ovviamente per definizione l'aspetto più delicato, è quello politico sulla distribuzione delle quote. Come avete sentito poco fa, Natasha Berthaud, quindi portavoce dell'esecutivo UE, dice c'è spazio per discutere i criteri che hanno sollevato posizioni molto divergenti, intanto perché da una parte alcuni stati hanno utilizzato di fatto il diritto di opt-out, cominciando dal Regno Unito, per non assumerne proprio nessuna parte, e perché altri paesi mettono in vista e in luce delle posizioni molto diverse in termini di numeri, di possibilità di accoglienza, di forza anche organizzativa per affrontare questa complessità. Ecco, a proposito di quote, allora noi vi facciamo sentire Vittorio Emanuele Parsi, editorialista del Sole 24 Ore. Lui anche dice, in un certo senso, dice addirittura abbiamo fatto un passo indietro, perché il tema più delicato, quello delle quote, rimane, scusatemi il gioco di parole, in alto mare. Sentiamolo. Rispetto alle decisioni che erano state adottate a seguito del vertice straordinario di Bruxelles, convocato proprio sull'immigrazione, mi sembra che abbiamo fatto un passo indietro, nel senso che sia i francesi che gli spagnoli non si considerano impegnati alle decisioni assunte dalla Commissione. Questo chiaramente apre un enorme vulnus a quel tipo di provvedimento. E non va dimenticato che quello è il punto politico più difficile. La ripartizione dei flussi non è la chiusura del rubinetto libico. La chiusura del rubinetto libico è importante, però in realtà i paesi europei stanno mostrando scarsissima solidarietà reciproca sulla ripartizione degli oneri dei flussi. Questo è il problema vero. Se a questo punto anche altri paesi, Ungheria, Polonia, via discorrendo, che già storcevano il naso, la Danimarca, iniziano a dire perché noi sì e gli altri no. Poi Francia e Spagna sono due paesi mediterranei, perché sono due paesi che in qualche modo avrebbero dovuto mostrare una solidarietà più immediata su questo tema, e così non è successo. Intanto, e cambiamo argomento, oggi incontro Sergei Lavrov, Jens Stoltenberg, quindi il numero due di fatto di Putin, l'uomo della politica estera, ma anche, come dire, un sodale di lunga data del presidente russo, è il capo della NATO. Come spiega Lavrov, l'incontro è stato chiesto dal segretario generale della NATO, la segreteria generale è a Bruxelles anch'essa. Insomma, quella che appare un tentativo, almeno una prova di disgelo, con il ministro degli esteri russi che dice Mosca non evita mai contatti e che ricorda che è stata la NATO a congelare i meccanismi di cooperazione con la Russia. Invece, sul fronte dei rapporti tra Unione Europea e Italia, la Commissione UE ha accolto con favore l'impegno del governo italiano di mantenere i target di bilancio. Insomma, approvata quelle che sono le decisioni delle ultime ore assunte dal governo italiano in materia di pensioni. Il servizio. Bene le nuove misure del governo sulle pensioni, bene soprattutto l'impegno a mantenere i target di bilancio inseriti nella legge di stabilità, la Commissione europea interviene nuovamente sul nodo pensioni che il governo italiano sta cercando di risolvere almeno parzialmente con i primi rimborsi previsti dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Rimborsi dovuti dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima la mancata indicizzazione degli assegni per gli anni 2012 e 2013, decretata a sua volta dal governo Monti. Ma a Bruxelles interessa soprattutto che tutto ciò avvenga nel rispetto delle norme di bilancio, perché la sostenibilità dei conti deve restare una priorità anche alla luce dell'alta spesa pensionistica. E su questo l'impegno del governo italiano c'è, ammette la stessa commissione, aggiungendo però che una valutazione finale dell'impatto sul bilancio del decreto legge sarà fatta quando arriverà il testo ufficiale. Insomma, la guardia resta sempre alta. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. È tutto, ora tutti convocati, noi ci sentiamo domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.